Il poeta Dante Alighieri, con il suo poema satirico La Commedia, chiamata in seguito La Divina Commedia, ha lasciato un'idea molto personale dell'oltretomba. Siamo tutti coscienti che nel comporre i canti il suo scopo non era certamente quello di presentare uno studio teologico relativo alla vita futura, per cui tutto va preso con le pinze. Del resto, anche molti credenti hanno le idee confuse riguardo all'aldilà e, più volte, ho sentito dire che il tutto sarà piatto come un deserto senza dune. E, se non sarà noioso, poco ci manca. Sarebbe presunzione sostenere di aver compreso pienamente come si vivrà nell'aldilà, ma la parola di Dio ci autorizza a trarre delle conclusioni senza ombra di dubbio, una delle quali è che la vita futura non sarà certamente piatta, livellata, uguale per tutti, soprattutto in relazione alle pene e alle gioie. A molti questo non sembra vero, e per questo rifiutano il concetto dantesco, il quale vede inflitte pene diverse ai reprobi o condannati, mentre per i salvati gioie corrispondenti al loro cammino terrestre. Sono da rifiutare certamente tutte le immagini figurative del poeta Dante, ma che le pene e le gioie dopo la morte siano proporzionate a come si è vissuti sulla terra, è vero. Proprio perché ci sono queste differenze, è utile è educativo prendere in considerazione cosa dice la parola di Dio, almeno per essere preparati a cosa ci aspetta dopo la morte. Il primo brano che leggiamo riguarda un discorso di Gesù stesso, contenuto nel Vangelo di Luca al capitolo 12. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato, e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. 47-48 Gesù si è espresso in questi termini incisivi per spiegare che quando egli tornerà darà a ciascun credente un premio proporzionato alla fedeltà e all'amore che avrà avuto nei confronti del prossimo. La fedeltà ad un compito ed il suo conseguente esercizio svolto con amore è proporzionato alla conoscenza della volontà del padrone. Però, essendo vero che non tutti i credenti possono avere la stessa conoscenza, va da sé che chi più conosce, più è responsabile, più uno è responsabile, più è colpevole, e più è colpevole, più verrà punito. Cosa che spiegherò fra poco. È difficile comprendere come mai alcuni meno credenti e non meno siano contrari a queste retribuzioni future corrisposte agli uomini in modo diverso e proporzionato al loro modo di agire quando erano sulla terra, anche perché tutta la nostra esistenza funziona così. I terreni producono cibo in proporzione a come sono coltivati, le piante portano frutto nella misura in cui vengono curate. A scuola i bambini sono promossi o bocciati, secondo le loro capacità. Al lavoro un operaio viene pagato in proporzione alla serietà del lavoro e alla sua competenza. Un cittadino viene onorato in base al suo operato. Nulla di particolare e di strano, perciò. Di fronte all'insegnamento di Gesù nella parabola delle 10 mine, cioè il denaro che circolava allora, in questa occasione Gesù ha parlato di un uomo nobile che, dovendo partire, diede una mina a ciascuno a 10 dei suoi servi, ordinando loro di fare fruttare i soldi. Al suo ritorno, con una mina un servo aveva guadagnato altre 10 mine e un altro 5. Un altro ancora restituì la sua mina senza averla fatta fruttare. Forse Gesù li trattò tutti ugualmente? Assolutamente no. A chi fece fruttare 10 mine diede il governo su 10 città, chi ne fruttò 5 ebbe il governo su 5 città, mentre chi non fece nulla per aumentare il valore dei soldi perse quel poco ricevuto, che invece fu dato a chi ne aveva di più. Ed è qui che Gesù disse: a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarò tolto anche quello che ha. Lecci 19.1127. Così funziona la vita terrena. Perché non dovrebbe essere così anche la vita futura? Che opinione abbiamo della vita ultraterrena? La nostra è un'opinione umana, frutto di una filosofia naturale, assorbita da credenze pagane, oppure accettiamo per vero ciò che Gesù ha detto e di conseguenza vediamo un futuro dove male e bene ricevono le giuste retribuzioni? Purtroppo, per una nostra inclinazione umana, siamo più propensi ad accettare il falso invece di ciò che è giusto. E, se questa può sembrare un'opinione pessimistica, basta guardarsi attorno. Perché tanto male e tanta violenza? Perché il diritto e la giustizia vengono continuamente ostacolati? Per quante spiegazioni possiamo dare, una cosa è certa. Gli uomini non credono ad un avvenire dopo la morte nel quale Cristo Gesù giudicherà e retribuirà quello che hanno fatto sulla terra. Ma chi ha posto fede in Cristo compie il bene, sia per riconoscenza scaturita dalla certezza di aver ricevuto il perdono dei propri peccati, sia perché sa che il male compiuto avrà il suo effetto anche in cielo. Il timore di Dio fa evitare il male. In che modo il male compiuto dal credente ha effetto anche in cielo? Non ha forse il credente già ottenuto il perdono di tutti i peccati passati, presenti e futuri e la certezza che ogni cosa sarà dimenticata? Tutto ciò è vero, ma ogni verità presenta molteplici aspetti. Per comprendere questo, leggiamo ciò che l'Apostolo Paolo ha scritto ai credenti di Corinto, convertiti che avevano un cammino pieno di imperfezioni. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. 1 Cor 3:15. Dunque, dopo la morte, tutte le opere dei credenti saranno setacciate ed esaminate. Quelle che non resisteranno al giudizio di Cristo non saranno ritenute degne di una ricompensa, per cui non tutti i salvati saranno uguali davanti a Dio. Alcuni avranno più gioia di altri. L'Apostolo Giovanni, preoccupato proprio di questo, avverte i suoi lettori affermando: «Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa». 2 Giovanni 8. Perché il futuro dei credenti non sarà piatto, non saremo tutti uguali, MD 5:19, non brilleremo tutti nella stessa maniera, non avremo tutti lo stesso premio, RM 8:17, non conosceremo e non serviremo Dio tutti. Nello stesso modo, Acts 7:1-3:15, non tutti occuperemo la stessa posizione, MT 20:2-3, non tutti. Risorgeremo con la stessa gloria, Ebrei 11:35, ma tutto sarà proporzionato alle vittorie che avremo perseguito qui in terra, a come avremo investito saggiamente. La vita cristiana ci è proposta come una gara, Ebi 12:1, una gara da correre con perseveranza, Ebi 12:1, e secondo le regole, 2 Tetrametri 2:5, diversamente si è squalificati e non premiati. Tutti i salvati saranno pienamente soddisfatti e appagati, ma in modo differente, come l'uovo. Tutti sono pieni, ma un uovo di gallina è più piccolo di quello dello struzzo. Tutto questo è palese nella scrittura, ma vi è un altro aspetto del giudizio di Dio che dovrebbe scuotere tutti coloro che hanno dei privilegi spirituali. Lo ha messo in evidenza Gesù, come è scritto nel Vangelo di Matteo. Allora Gesù cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute, dicendo: «Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentite con sacco e cenere. Perciò io vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino all'inferno, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi. Pertanto io vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. MT 11.2024. Tiro e Sidone erano due città non appartenenti al territorio di Israele, il cui territorio fu soltanto visitato da Gesù. MT 15.21. Mentre Bezzaida e Capernaum avevano avuto il privilegio di vedere dei miracoli, Capernaum addirittura era diventata la città nella quale Gesù, lasciata Nazareth, era andato ad abitare. MT 4.13. Per questo Gesù disse che era stata innalzata fino al cielo. Dunque grande era la diversità di rivelazione concessa da Dio a Tiro e Sidone, città che appartenevano a popoli increduli, in confronto a quella ricevuta da Bezzaida e Capernaum. Dal punto di vista umano le città pagane avevano dato pochissimi risultati spirituali, mentre molte di quelle appartenenti al territorio di Israele avevano accolto Gesù favorevolmente, eppure come spesso ha fatto Gesù si è lamentato più di quelle che lo hanno accolto, e nelle quali ha fatto dei miracoli, che delle altre. Perché? Perché se le città pagane avessero avuto delle prove della potenza di Dio, al pari di quelle mostrate a Israele, avrebbero reagito molto meglio. Terribile sentenza. Nel giorno del giudizio, le città che hanno avuto più privilegi spirituali saranno giudicate molto più severamente delle altre, ricevendone così pene maggiori. Altro che un mondo futuro piatto. Però, nonostante tutte queste differenze, ora e in futuro, in cielo ci sarà una sola parità, parità, profetizzata da Gesù nella parabola dei lavoratori delle diverse ore, cioè tutti saranno salvanti cotestamento i, per grazia, cioè senza nessun merito. Eppure anche in quella occasione qualcuno avrà da ridire sulla misericordia di Dio, mostrando così come sia vera quella canzone che diceva: se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. Io benedico Dio perché ha livellato il prezzo per ricevere la salvezza e anche per aver differenziato i premi, perché se fosse stato il contrario, sarei stato assieme a voi la persona più disperata di questo mondo. Maggio 2009. Ellero.